if they had lost some. Piangere addosso a quel vestito di seta rosso che avevi scelto tra mille guardaroba del giorno in cui girammo il nostro primo porno. Guidare in autostrada era un enorme piacere. Le mani, oh, il bicchiere, oh, oh, oh. Ma appena poi cercavo un dialogo umano, oh, oh. Avevi l'espressione di uno stupido sovrano. Erotiche voglie.